Io volevo dire una cosa, cioè volevo agganciare quello che voglio dire a quello che ha detto lui, che adesso i ragazzi hanno più libertà di pensiero, quindi possono esprimere il loro pensiero. Perché ad esempio io guardando... Solo quando dici i ragazzi, cioè siamo noi, siete voi, sono loro... No, siamo noi. Chiamarci se vuoi, ragazzi persi, la vita lontana da ogni cliché, cercala dentro di te. La vita lontana da ogni cliché, cercala dentro di te. Non saremo mai come voi, e i miei amici come me, parlano ai cani randagi e che sanno ascoltare gli uccelli, e avremo ali come quelli e becchi forti per grattare dove le vostre bugie sono più deboli. Non ci provare ad entrare nelle nostre vite. Non ci provare che finisce male. Non saremo mai come voi, siamo diversi. Puoi chiamarci se vuoi, ragazzi persi, la vita lontana da ogni cliché. Dentro di te, la vita lontana da ogni cliché, cercala dentro di te. Puoi chiamarci se vuoi, ragazzi persi, la vita lontana da ogni cliché, cercala dentro di te. La vita lontana da ogni cliché, cercala dentro di te. dipende anche dalla società in cui si vive, perché per esempio, come ha detto lei, i ragazzi adolescenti del 68 avevano altri ideali, quindi era una società un po' diversa, era un po', forse non so perché non era ancora nato, forse era un po' più chiusa, quindi ora era una voglia di libertà, invece al giorno d'oggi che forse c'è più libertà ci sono altri ideali. Per esempio? Dunque, certo non c'è voglia di fare la rivoluzione per la libertà, perché forse magari uno un adolescente dice si sente grande magari andare in discoteca, o se un ideale andare in discoteca per esempio, o avere il motorino a 14 anni.